quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Anche la vita strumentalizzano, non rendendosi conto che di fronte a quelle immagini non c'è il PD contro la destra, ci sono gli umani contro le bestie. Ma d'altronde chi è artefice di vari cara e di vari scie, per come li conosciamo oggi, era il minimo che poteva fare lo sciacallo su quella foto, quindi no, non mi sorprendo di niente. Siamo delle bestie noi che proviamo a risolvere il problema. Secondo me, e sono delle bestie loro. Ma spesso e volentieri le bestie a quattro zampe sono molto più intelligenti e molto più avanti rispetto a qualche bipede umano. No, non l'animalista, però ci sono dei cani che sono molto più intelligenti di qualche uomo, anche di qualche uomo al governo. Animalisti ormai, tutti animalisti, tutti a parlare di animali, vermi, bestie. Si potrebbero fare molte battute, di questo bestiario politico, di questo bestiario che si è impossessato della politica. Si parla dell'immigrazione da tre giorni, non si fa altro che parlare di bestie, vermi e robe così. Benissimo. Così, è il momento delle proposte strampalate, una su tutte mi ha colpito. Allora, c'è il premier finlandese, voi dite ma chi se ne frega del... No, il premier finlandese, si chiama Sipila, ha detto: io ho una casa che in questo momento non mi serve a molto, perché siederà nel palazzo Chigi finlandese, e quindi sono disponibile a dare la mia casa nelle campagne del nord della Finlandia, aprirla ai migranti. Allora, il giorno è andato dai parlamentari italiani a fare una domanda semplice: anche voi, perché non aprite una casa, la vostra casa, caro onorevole, cara onorevole? E su tutti vince l'onorevole Gianluca Pini della Lega. Sì, risponde così, perché allora non chiediamo l'indirizzo dei 900.000 coglioni che hanno votato alle primarie del PD. Mandiamoli a casa loro. Bello, no? Sì, tra bestie, bestiari, vermi e cose del genere, il livello è questo. Intanto in Germania, Berlino, certo, la Merkel, cattiva Merkel, accusata di prendere solo mano d'opera a basso costo, ha detto: prendiamo 500.000 profughi l'anno. 500.000. Saranno calcoli brutali per il welfare tedesco, saranno quello che volete, ma un politico che ha una visione e ha un coraggio fa anche queste cose. Comunque, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Se volete scriverci, se volete dire cosa ne pensate di bestie, vermi e cose del genere. Intanto devo salutare per ora il mercoledì diventa il mercoledì del direttore, un programma di approfondimento di Luca Dini. Eccolo con la solita presenza di Paola Saluzzi, insomma, un'altra di cui non insomma ce ne frega assolutamente insomma tutta. Il graditissimo ritorno di lui. Luca, cosa vi è successo? Luca? Luca Dini, direttore di Vanity Fair, eccoti qui. Tu lo sai che in questo momento sei con me da solo. Siamo così a fare una coppia, un matrimonio, un'unione civile, ecco, perché un pack era. Vabbè. Com'è? No, perché c'è un giallo incredibile, no? La nostra la mettiamo comunque la sigla, perché così magari la evochiamo. 2015, evviva le rosse, torna, ma diventa evviva la Paola. C'è bisogno di una sigla nuova. Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, caro ascoltatore, Paola Saluzzi, dobbiamo rinnovare la sigla di cui non dove sei frega, finita Paola Saluzzi nulla. Non risponde al telefono, caro direttore, ma com'è possibile questa cosa? Di solito lo fai tu. Dille. Esatto, di solito sono io. Vabbè. Dille che queste cose non si fanno. Di solito lo fai tu. No, non lo so. Stiamo chiamando al cellulare, ma non abbiamo altre possibilità. Non so, di citofonarle a casa, di fare così. Comunque, eccolo qua, Luca Dini. Come stai? È passato un'estate. Bene. Vi siete mancati. Ti siamo mancati, sì, certo, perché ti sarà mancata la telefonata alle 6:30 del mattino tutti i mercoledì. Noi ci crediamo assolutamente. C'è quel naso che sta disturbando però la cornetta del telefono, adesso si sta allunga, se puoi per favore spostarlo. Eccoci qua. Allora, caro Luca Dini, sei ripiombato nella realtà italiana con questi bei dibattiti a suon di vermi e bestie. Questo ti mancava, vero? Di la verità. Questo no, devo dire, me lo risparmiavo. Te lo risparmiavi volentieri, Sì. Però dicono tutti che la Germania adesso è troppo pragmaticamente. Ormai anche la Merkel, che sembrava quella che aveva una visione, adesso viene criticata dicendo vuole solo fare dei meri e puri calcoli delle persone che vuole prendere, persone di serie A. Bizzarro quando... Insomma, quando non prendeva nessuno, adesso fa solo calcoli. Cioè, sembra che comunque la Merkel sia sempre responsabile di tutti i mali, invece noi no, siamo perfetti, generosi, ma insomma. Sì, un po' è così. Anch'io da due giorni dico che secondo me Angela Merkel fa benissimo, cioè ha avuto una visione, ma certo che avrà avuto il suo calcolo politico. Anch'io non credo che sia mossa così da un sentimento banalmente umano, è un politico e quindi avrà fatto dei calcoli, no? Avrà fatto. È un statista, farà dei calcoli, però fa anche dei calcoli di natura, insomma, di essere anche come vuole essere ricordata poi in seguito. Insomma. E poi non è solo quello, cioè, in questi giorni ho letto una cosa interessantissima, cioè, che faceva vedere sostanzialmente che il livello di scolarizzazione medio degli immigrati in paese è pari o praticamente identico a quello dei cittadini di quel paese. Cosa vuol dire? Che gli ingegneri, eccetera, eccetera, cercano di andare nei paesi dove ci sono più possibilità per gli ingegneri, eccetera, eccetera. Questo vuol dire, insomma, i problemi del nostro paese sono i nostri problemi. Non è inutile che... Cioè, non è che la Merkel cerca di avere manodopera migliore, che la manodopera migliore vuole andare in Germania. Sì. Ci vanno anche i nostri, certamente. Però non lo so, tu ti piace questo giochino, che non è poi un giochino del aprireste casa vostra? Anche Gianni Morandi su Facebook ha detto io aprirei casa mia, perché è stato criticato ovviamente da qualcuno e ha detto apri casa tua, e Gianni Morandi ha risposto ci sto seriamente pensando. Il premier finlandese ha detto ci sto pensando, il giorno appunto va a chiedere a un po' di parlamentari, qualcuno dice ma sì, io la mia casa la metto anche a disposizione, ne ho un paio e quindi una perché no, altri dicono ma che tipo di atteggiamento è questo, non lo so, bisognerebbe iniziare da queste piccole cose, aprire casa nostra? Beh, sicuramente quando uno lo dice bisogna intanto rispettarlo, invece di pensare che stia facendo una buttata oppure che stia cercando di farsi pubblicità. Trovo odioso il discorso comincia tu, fallo tu, chiedetelo a quelli che hanno votato alle primarie, cioè tutto estremamente stupido. Cioè io penso che ognuno debba essere libero di fare le sue scelte, ma almeno la generosità va rispettata. Almeno la generosità, sì, su questo sì. Devo dire che non lo so poi se il premier finlandese ha fatto questa battuta che rimarrà lettera morta oppure è vero. Però insomma il tema... Io credo di no. Credi di no? Dice poi non so se qualcuno vorrà andare nel nord della Finlandia, ma questo Sì, infatti quando io ho letto c'è una bella casa su nelle campagne del nord della Finlandia, no? Mi vedo, sarà sicuramente bellissima la campagna del nord della Finlandia. Bellissima. Oh, sì, con l'autunno che arriva, insomma, quel freschetto, esatto. Direttamente dalla Siria alla campagna del nord della Finlandia, per carità, magari c'è anche qualcosa da fare. Oh, però qui noi ci rioccuperemo di un tema che ieri è stato affrontato, devo dire, con molto, molto piglio anche dal vice capo di gabinetto di Ignazio Marino, che noi abbiamo chiamato perché sta mettendo a punto tutto un regolamento per il regolamento di polizia municipale. No, però attenzione, aspetta, mi danno una notizia clamorosa. Paolina, Paolina, guardo Lorenzo Paolina, Nespoli. Paolina, che è successo? Paolina, sì. Che è successo? Che succede? Ma Paolina, se ve lo dico non ci crederete mai. No. Buongiorno. No. Buongiorno. No, che è successo? Ti sono entrati i pompieri in casa? No. Ti è incantato il touch screen. Cos'è il cos'è, sei incantato? Avete presente provare a premere col ditino per rispondere col telefono e pensare che una volta c'erano telefoni con i quali schiacciavi? Sì, Luca Dini dice ho presente perché è la scusa che trovo tutti i giorni quando mi chiama uno a cui non voglio rispondere. Disperata. Ma una cosa donna vuol dire? Ma spaccalo, ma potevi spaccarlo quel cellulare? Potevi buttarlo per terra, non... Devi estrarre la schedina, cercare un altro telefono simile. Paola Saluzzi è tornata! Buongiorno. Insieme a Luca Dini. Eccola! Il touchscreen. Maledetto touchscreen. Cioè, scusa, quindi cosa hai dovuto fare? Niente, ho dovuto, una cosa molto semplice, estrarre la microschedina, prendere un altro apparecchio, i cosiddetti muletti. I muletti. Prendere un altro apparecchio, inserire la schedina, telefonare disperata al vostro centralino e dire aiuto. E no, ovviamente nessuno ti ha risposto perché questa... No, mi hanno risposto tutti, scherzi. Ti hanno risposto? Perché arriva la telefonata. Nespoli, certo. Non ha richiamato da solo perché chiaramente aveva il dito fisso sul mio telefono. Ragazzi, che brutta figura come rientro. No, no, ma insomma, hai tipo 400 chiamate nostre, ma niente di... Però eri lì col ditino, rispondi, ma porca, ma rispondi e niente. Ma era sempre quei casi in cui, questo spero che la cosa stia anche appassionando i favolosi radioascoltatori, quelle cose in cui dici perché non ho il telefono vecchio, quello col tasto, clic e rispondo. Spegne. Accidenti. Ben trovati, eccoci qua. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, stavo dicendo che ieri la vice capo gabinetto di Ignazio Marino, in maniera molto spigliata, ci ha raccontato che cosa è allo studio del comune di Roma, e cioè multare i clienti delle prostitute. Sapete che è un tema che ogni tanto annoso, che torna e ritorna. Oggi sui giornali la polemica divampa, riprendendo quello che ha detto ieri la dirigente Matarazzo. Ma con tanto di sanzione che o uno paga subito o ti arriva a casa, perché sa qua. No, ti arriva a casa, così le mogli saranno liete di ricevere. proprio così, la gogna, cara Paola Saluzzi, tanto a casa tua non succederà, e lo sappiamo, ma insomma, metti la scena, non so, un giorno apri la posta e arriva una lettera, una bella sanzione, perché tuo marito era sulla Salaria alle 2 di notte, ma ti sembra una roba normale, che voglio dire... Questa come prima domanda. Così, ti accogliamo così. Ti accogliamo così. È una presa di posizione singolare. Ma è fatta per il giubileo? No, sì, certo. È singolare come gogna. Molto singolare. Anche perché poi diventerebbe sessista nei confronti degli uomini, forse, no? Spezziamo una lancia a favore, insomma. come dire, credo sia sicuramente un problema, non so se sia il problema principale, all'interno di questa città. Sì, no, su questo non c'è dubbio, ma ti sembra il modo di affrontarlo? Cioè, voglio dire, mettere alla gogna le persone che per carità, voglio dire, sì, sono andate a prostitute, ma adesso non dobbiamo far noi la morale a nessuno. Non lo so, mi sembra molto, molto, molto forte come presa di posizione. No, anche perché l'idea è così, le mogli saranno ben contente di aprire questa posta e sapere che i loro mariti fanno questo. Ma questo serve poi a smantellare la rete di prostituzione che in teoria sì, in teoria sì, perché con i proventi, con i proventi delle multe, i proventi delle multe dovrebbero essere destinati a progetti di inclusione, eccetera. Però è il principio in sé. Facciamo così, devo andare a dare le informazioni sul traffico, perché siamo facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi entriamo, voglio sentire il vostro parere su questo. Scusa, mio amore, non è che non ti volevo sposare, c'era il traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... "24 Mattino". Eccoci qui, dai, ho tolto pure la segreteria telefonica in onore di Luca Dini e Paola Saluzzi, così recuperiamo un pochino. Adesso Luca, non dirmi che ti mancava, perché volevi sentire la segreteria telefonica. Non ci credo, sarebbe la seconda bugia, hai detto già che quest'estate ti siamo mancati. Vabbè. Allora, ma forse è vero però che ci siete mancati, sì. Sì, certo, ma la telefonata alle 6:30, uno magari ci siamo mancati per una bella grigliata in riva al mare, va non bene, questo vero, lo posso accettare, per la telefonata alle 6:30 non lo so. Vabbè, comunque, caro Luca Dini, ma ti sembra che la gogna mediatica, al di là di come contrastare la tratta degli esseri umani, questa è la cosa più importante sul tema della prostituzione? Poi c'è l'indulgenza plenaria. Ah, giusto! Ti arriva a casa, poi c'è il giubileo, c'è il perdono del Papa e via. Però... No, adesso, a parte gli scherzi, devo dire una cosa, la scelta di eventualmente regolamentare e liberalizzare la prostituzione è una scelta che deve fare la politica nazionale. Finché è illegale, la scelta dell'amministrazione comunale è legittimissima. È legittima. Sì, ma io dico un'attività illegale. Un'attività illegale, quindi chi la... Cioè la tratta. Chi influisce se ne assume la responsabilità. Sì, in realtà la prostituzione in sé, cioè lo sfruttamento della prostituzione illegale, cioè prostituirsi, certo. Più che altro è il concetto di ti mando a casa le mogli. Ma senti ancora cosa ha detto a Matarazzo, no? Perché uno dice, ci sarà, cosa farete? Non so, multeremo se uno fa delle manovre strane in macchina, sentite. Ci potrebbe essere anche una sanzione per chi in qualche modo effettua delle manovre, no? Vabbè, si può dire alla moglie, mi hanno beccato, quindi, che facevo inversione, no, quando non, no, non si poteva. Beh, però è difficile dimostrare alla moglie di trovarsi alle 2 di notte sulla salaria, ecco avrei, per dirlo chiaramente. Se mio marito mi dicesse ero alle 2 di notte sulla salaria, mi sono perso. Sì, esatto, è poco credibile. Vabbè, ma cioè, capisci, Luca, a dire voglio additarti a pubblico traditore, non lo so, ho delle perplessità. Sì, no, perplessità ce l'ho anche io, però di certo è una delle cose più efficaci che io, cioè, ammesso che uno voglia combattere la piaga della prostituzione, del suo sfruttamento, certo questo è uno dei modi più efficaci di farlo. Poi vediamo. Ho molti dubbi sul fatto che questa cosa poi effettivamente verrà fatta. Esatto, perché ci saranno le mille polemiche, eccetera. Paola, non è il primo problema di Roma, effettivamente. No, ma oltre questo, ma insomma non è il primo problema di Roma, purtroppo questo è un problema. Io ho avuto, come tantissimi di noi, il privilegio immenso, e non so trovare un altro aggettivo, di conoscere Don Oreste Benzi, che ha fatto di questa campagna del tentare di distruggere questa rete di sfruttamento osceno, in tutti i sensi, delle donne, la battaglia di una vita. Certo che smantelli e devi smantellare questa rete, bisogna capire in che tempi e in che formula, sì. Perché se togli il mercato da una parte, chi gestisce in maniera orribile la vita di queste povere disgraziate la va a gestire da un'altra parte. Insomma, vuol dire, sì, potrai non avere più per strada nella tua città questo problema, il problema si sposta altrove. E questo è il problema. Sì, rimango perplessa sul sul metodo. Sì, sullo certo, spedire a casa. Ti mando a dire, guarda che a casa dove tu credevi che niente di tutto questo accadesse, questo accade. Esatto. E che sì, per carità, è già garante della privacy, aveva detto non si può fare, ma adesso forse tornando alla carica. Ma ripeto, dovrei essere dalla parte di chi dice perfetto, poi voglio vedere la faccia del marito. Sicuramente non dice... abbi dubbio, però insomma rimango un po' da studiare meglio. Sì. Ci sarebbe però una bella telecamera per vedere quei 20 secondi di reazione del marito e della moglie, anche non sarebbe male, così per farci un bel reato. Non sarebbe male finché non capita dentro casa tua, allora è chiaro, lo spettacolo è meno edificante da vedere. Allora io qui in realtà ho 3 minuti, ho la copertina di Vanity Fair con una Jane Fonda. Voi lanciate questo tema, Jane Fonda 77 anni, e il titolo Rifatta. E allora, caro Lucadini, cioè, volete lanciare questa bella provocazione? No, non voglio lanciare. Lei sostanzialmente dice: io quel coraggio lì di invecchiare naturalmente non ce l'ho, rispetto a chi ce l'ha, però rispetto a te se non ce l'ho. E quindi a 77 anni una bella rifattona, beh, sappiamo, c'è in fondo, no? Grande icona. Rifatta bene. Però. Sì, no, sì, certo, sarà rifatta bene, però voglio dire, sempre mega rifatta lo è. Va bene così, però, cioè senza giudizi, ovviamente, la ponete la questione. Assolutamente senza giudizi. Cara Paolina, hai capito? Ti guarda già in fondo oggi dalla prima di copertina. Ti dice rifatta 77 anni. E va bene, che problema c'è? C'è qualche problema? E questo sarà tutto da, come dire, da studiare. No, ma come da studiare? In che senso? Non lo so, io guarda, è interessantissimo, certo, è il tema su cui... anche su questo discutere, perché è un tema e non da oggi. Io ricordo il piacevole shock il giorno in cui la sera, anzi nel corso di una presentazione, di una premiazione, la sera in cui ho incontrato Virna Lisi, che non solo rimpiangiamo perché non c'è più, ma rimpiangiamo perché quanto era bella. Ed era lei, era proprio lei, cioè, così com'era, era passato il tempo ed era lei. E lì, se vuoi, madre natura da una parte, ma... che meraviglia, proprio insomma, il bacio della saggezza sotto tutti i punti di vista sulla fronte di questa donna con la quale io dovendo esordire dicendo buonasera, io ho detto che bella, proprio così mi è uscito. Però Jane Fonda faccia un po' quello che crede, questo assolutamente, ognuno è libero di fare ciò che vuole, perché no, anzi tra l'altro puntare il dito sarebbe un errore, ma questo sì, questo se sì. È contenta lei. Però Paolina, qua ci sono tutta una serie di consigli. Se dovesse capitare col touch di persone, premi, stand by, poi lo ripremi e lo schermo dovrebbe risuscitare. Oppure chi guardate, dice spegni, accendi. Avete ragione. Quando senti alla radio, perché poi ovviamente ho accesso. Eri ovviamente angosciata. Oddio, mi stanno chiamando. Hai svegliato. Perché faccio la parte di quella che per più sta dormendo. Esatto. Hai pure svegliato tutti, diciamo la verità. Avrai svegliato tutto. Sveglia! Vabbè, dai, vi saluto e vi ringrazio. Ci sentiamo mercoledì prossimo con Paola Saluzzi e Luca Dini. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Siamo qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Come sapete andremo in onda fino alle 9:30. Anche oggi, dopo la lettura dei giornali, parleremo di vari temi. Dalle 8:15 avremo ospiti. Beh, intanto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Avremo ospiti anche per parlare del tema dopo che la Cassazione ha detto che sulla vicenda Meredith Kercher c'è stato un processo pieno di errori. Avremo ospite l'avvocato di Amanda Knox insieme a un ex magistrato, Piero Toni, per raccontare come mai non è il primo caso di inchieste che poi franano anche sotto errori da parte di chi dovrebbe fare queste inchieste in maniera precisa, come mai in Italia, e se è vero che succede troppo spesso. È la tesi per esempio dell'ex magistrato andato in pensione, Piero Toni, che dice in un libro dal titolo Io non posso più tacere, che

mi dispiace. Così Agnese Renzi placa ogni polemica sui possibili riflessi di una risposta che avrebbe data questa domanda. Allora, è un tema legato alla scuola, ma di tutt'altro genere, più un tema legato all'opportunità, alla decisione di dare una cattedra di ruolo a colui che è stato condannato per l'uccisione di Marta Russo, la studentessa della Sapienza, era il 9 maggio 1997. Le polemiche per il fatto che Giovanni Scattone, che ha scontato la sua pena, si è riabilitato, quindi ha scontato quello che doveva scontare, però è stato immesso in ruolo e insegnerà psicologia in un istituto a Roma. Ora, si tratta di una decisione che dal punto di vista della legge non ha nessun tipo di questione. Si tratta di discutere sull'opportunità di mettere a insegnare, ma non è la prima volta che lo fa, una persona che è stata condannata per l'omicidio. Insegnare ragazzi, insegnare psicologia, insomma materie delicate. Certo, i genitori di Marta Russo non sono per nulla contenti. Scattone in cattedra offende la memoria di nostra figlia Marta. Pagina 21 di Repubblica. Federica Angeli ascolta il parere di Aureliana, la mamma di Marta Russo. Provo rabbia, tanta. In questi anni già altre volte questa brava persona, tra virgolette, ha avuto cattedre come supplente in istituti romani, anche alla scuola dove andava a lezione Marta, ma almeno in quell'occasione ha avuto il buon senso di lasciare l'incarico. Una persona colpevole di omicidio non può fare l'educatore, dice la mamma di Marta Russo. Io non dico che non debba avere un lavoro, ma almeno non quello di trasmettere nozioni e valori ai ragazzi. Ovviamente Scattone non parla, chiuso nella sua casa, ma come racconta Luca Lippera sul Messaggero a pagina 11, affida qualche frase agli amici che gli stanno intorno e dice Giovanni Scattone: ogni volta è la stessa storia, le stesse polemiche, un lavoro diverso dall'insegnante io lo farei anche, ma di questi tempi si fa fatica a trovarlo. E certo, e non solo lui, aggiungo io, le polemiche riesplodono puntualmente non appena trovo un'occupazione, si è sfogato Scattone, ma devo pur guadagnarmi da vivere come tutti, l'insegnamento è il mio mondo, mi trovo bene coi ragazzi, anche loro si sono trovati bene con me. Sul Corriere della Sera lui ha attribuito un'altra frase che è questa: io potrei anche pensare di chiedere perdono, ma come potrei chiedere perdono per un omicidio che non ho commesso? Perché questo, nonostante la pena, nonostante scontata, nonostante la condanna, è sempre stata la posizione di Scattone. Tra l'altro, a proposito di scuola, noi avremo ospite Luca Zaia, governatore del Veneto, che ha deciso come presidente della regione di fare ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento della buona scuola. È incostituzionale perché cancella il ruolo della regione, vanificandone quei compiti programmatori di gestione che la Costituzione le ha affidato, e quindi la richiesta di incostituzionalità della buona scuola, così la Regione Veneto ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale. Vedremo ovviamente che succede. Ho detto che parleremo anche della vicenda Meredith Kercher, l'omicidio, e del fatto che la Cassazione ha detto è stata stroncata l'inchiesta che ha portato prima la condanna, poi l'assoluzione definitiva di Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Gli innocenti in cella per errore. Sapete quanto ci costano l'anno? Ce lo scrive il Giornale oggi a pagina 12. 35 milioni e 255 mila euro. Questa è la cifra liquidata per 995 domande di ingiusta detenzione nel 2014. È un aumento del 41,3% rispetto all'anno precedente 2013. 35 milioni l'anno è ciò che ci costano gli innocenti in cella per errore. Gente che si fa il carcere e poi sono giudicati innocenti. Ma non è questo l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, bensì quest'altro, l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. Ce lo scrive il Messaggero, una vicenda che abbiamo affrontato, riguarda il finanziamento pubblico e i partiti. Ne abbiamo parlato in passato quando abbiamo detto che quest'anno i partiti avevano i bilanci che non sono stati controllati perché l'organo preposto non li ha controllati. Nonostante ciò, siccome era a rischio il fatto di ricevere i soldi del finanziamento pubblico 2013-2014 per tutti i partiti, tranne il Movimento 5 Stelle, che sapete non li riceve, lo devo sempre dire, se no mi subissano di insulti e improperi. Allora, il Messaggero racconta questo: finanziamento pubblico, i partiti si fanno la sanatoria. Eccolo qui, per il 2013-2014 i partiti riceveranno i soldi del finanziamento pubblico anche se non è stato effettuato il controllo dei loro bilanci. Lo prevede una leggina piccolina che sarà esaminata oggi dall'Aula della Camera, un testo che modifica la legge sul finanziamento pubblico prevedendo una deroga, una deroghina, una deroga all'obbligo di certificazione dei bilanci per il 2013-2014. Saranno tutti d'accordo per votare questa piccola deroga al finanziamento pubblico, una leggina che salverà il finanziamento per questi due anni, anche se i bilanci non sono stati controllati, ma la deroghina. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Quegneun, affermit, venenzit kengen, kenel, castessan drinka, valesh le giornel, e ne abitidid con la lesh bel. Dialetto molfettese. Vabbè, ma è straordinario dire quante parole ho capito in percentuale, sarebbe umiliante nei miei confronti, però questa in dialetto molfettese è fantastica e vi invito, come ha detto, a mandarcela con tutti i dialetti della vostra terra, 0246524492, fantastica, adesso la ripeto, come una filastrocca, no, non lo farò mai. Allora, cari ascoltatori, come detto, molti giornali aprono su questa decisione storica del Papa di modificare la rivoluzione della Sacra Rota, la definisce il Corriere della Sera, e cioè modificare in maniera storica sicuramente tutti i procedimenti per quel che riguarda l'annullamenti dei matrimoni per il Vaticano. Una riforma che cambia il diritto canonico, un qualcosa che era fermo al 1741, come racconta Carlo Marroni oggi sul Sole 24 Ore, pagina 19, la rivoluzione della Sacra Rota, una riforma destinata a segnare in profondità il pontificato di Francesco, un cambio netto delle regole nel processo canonico per le cause di nullità matrimoniale, come non accadeva dal 1741, e va nella direzione imboccata dal Papa argentino di una Chiesa attenta agli ultimi, ai margini della comunità, ai poveri. Ecco allora che il processo, che in alcuni casi dura anche 10 anni, diventa più snello, pur senza mettere in discussione i capisaldi della dottrina a partire dalla indissolubilità del matrimonio. C'è di più però, scrive Marroni. Bergoglio mette al centro il principio di collegialità, dando ai vescovi delle diocesi un ruolo centrale che fino ad oggi non avevano. Ovviamente è molto interessante, se volete approfondire, il commento anche del teologo Bruno Forte, che parla di trasformazione di evangelica semplicità. È chiaro che per semplificare all'estremo molti giornali scrivono Bergoglio fa il divorzio breve anche in Vaticano, in realtà appunto non cambiando la dottrina non è così, si tratta di annullamento per le cause previste dalla Sacra Rota, ma certo questo pone al centro dell'attenzione oggi sui giornali la famiglia. C'è un'altra notizia che pone la famiglia in primo piano, e cioè l'ennesima tirata d'orecchi che l'Unione Europea fa all'Italia sulla questione delle nozze gay, le nozze tra persone dello stesso sesso. L'Italia dica sì alle nozze gay. Questa volta è stato il Parlamento Europeo a rivolgersi con chiarezza all'Italia e anche ad altri 8 paesi membri dell'Unione, a dir la verità, dicendo bisogna dare diritti alle coppie gay. Sapete che in Italia c'è questo dibattito sul cosiddetto disegno di legge Cirinnà, da Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico, che lo sta portando avanti, porta la sua firma, è la prima relatrice, Monica Cirinnà, che viene intervistata proprio dal Corriere della Sera, pagina 5, e dice: eccola qui l'ennesima tirata d'orecchia all'Italia in temi di diritti civili. Già in luglio era intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma ora finalmente sulle unioni civili omosessuali si vede il traguardo. Però Monica Cirinnà dice: anche se c'è ostruzionismo di perenne di alcuni senatori, e li nomina, In commissione giustizia è arrivata ieri la cavalleria: Gasparri, Sacconi, Caliendo, Malan, Di Maggio, Di Biagio. Ma non sono senatori tutti della commissione giustizia. Sì, però hanno firmato e presentato emendamenti al disegno di legge sull'unione civile e dunque vengono a sostenerli e a spiegarli. Risultato: dalle 11 del mattino ieri alle 5 del pomeriggio abbiamo approvato solo 60 emendamenti, quando invece per approvare un emendamento in genere basta una ventina di secondi. Adesso mancano ancora 1260 emendamenti. Dunque, con questo ritmo, se il premier Renzi dice entro il 15 ottobre va approvato il testo, beh, è impossibile, a meno che non si decida di andare in aula direttamente senza aspettare l'approvazione della commissione. Si può fare, ma sarebbe una sconfitta per l'intera commissione. La Monica Cirinna punta il dito contro chi si mette di traverso e fa gli emendamenti, cosa legittima, ma secondo lei fatti apposta per ostacolare questo provvedimento. Staremo a vedere. Oh, c'è un grande dibattito sempre sul tema dell'immigrazione, ben sviluppato anche oggi dai giornali. Sul centro del palcoscenico c'è la decisione di Angela Merkel di dire accogliamo 500.000 profughi l'anno, anche se Libero dice sì, accoglie i siriani. Però mentre accoglie 500.000 profughi caccia dall'altra parte, perché siriani, caccia dall'altra parte profughi di altri paesi, in particolare dall'Afghanistan, ma anche dal Kosovo, dalla Serbia, dall'Albania, Bosnia e Macedonia. Il tema è questo: perché Angela Merkel ha preso questa decisione? Beh, è una decisione pragmatica, certamente, economicamente pragmatica. Scrivono per esempio tutti i giornali, oggi interessante l'analisi di Nicola Cacace a pagina 3 dell'Unità, la bomba demografica che solo gli immigrati possono disinnescare. Scrive Cacace: tutti hanno lodato l'inversione di rotta della Merkel, d'Arcinio Guardano, dell'austerità europea, ora a sostenitore di un'Europa dei valori, quelli fondativi della solidarietà e dell'umanesimo cristiano. Qualcuno è stato colpito anche dalla precisione del numero di migranti che la Germania si è detta disposta a accogliere, 500.000 l'anno. Pochi hanno ricordato che la Germania, con l'Italia e il Giappone, è tra i paesi più vecchi al mondo. Da anni ha un deficit di natalità di 600.000 bambini. La bassa natalità ha già portato il paese a un indice di vecchiaia molto alto, che se continuasse con l'attuale natalità, 1,4 nati per donna, invece dei 2 nati per donna necessario per l'equilibrio demografico, porterebbe al fallimento del paese. L'inversione di marcia tedesca, dunque, ha caratteristiche di intelligenza e interesse economico nel paese. L'Italia è nella stessa identica situazione demografica della Germania, con la sola differenza che nessuno se ne ricorda. E scrive l'Unità: quello che razzisti e xenofobi vogliono nascondere, e la sinistra di molti paesi, il nostro incluso, non riescono a spiegare, è il grande vantaggio economico di una immigrazione giovane, la stessa che negli anni 2000-2010 ha fatto aumentare di 4 milioni la popolazione italiana e che l'ha fortemente ringiovenita. D'altronde la domanda che ci dobbiamo porre è questa: chi pagherà le pensioni agli anziani quando diventano troppi rispetto ai giovani? Ecco dunque la decisione tedesca, anche il Giorno la mette così: pagano le pensioni e fanno figli, Merkel vuole 500.000 migranti l'anno. Chiamatela spregiudicata, chiamatela pragmatica, qualcuno può pensare che sia una politica, una statista che ha una visione politica. Tra l'altro, sulla questione dell'immigrazione, cito anche questo approccio che c'è oggi sui giornali: aprireste casa vostra a un immigrato dopo che il Papa ha detto li accolgano le parrocchie? Dopo che Gianni Morandi su Facebook, rispondendo alle critiche, ha detto sto pensando di aprire casa mia? Dopo che il premier finlandese, tale Sipilä, ha detto io ho una casa nelle campagne finlandesi, non mi serve in questo momento e sono disposto a darla per accogliere qualcuno? Allora il Giorno è andato con Elena Polidori a chiedere ai parlamentari: e voi aprireste casa vostra, caro onorevole? Vince su tutti la risposta di Gianluca Pini, onorevole della Lega. Aprire casa mia? Perché invece non mi date gli indirizzi dei 900.000 coglioni che hanno votato alle primarie del PD? E li mandiamo a casa loro i clandestini. Bella, no, questa?

Ragazzi, siete spaziali. Alessandro Milan. Ma che cazzo è Alessandro Milan? E va bene, accettiamo tutto alle 8:21 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, voglio partire da una cifra, un numero che oggi il giornale pubblica a pagina 12. La domanda è questa: sapete quanto paghiamo noi, lo Stato, ogni anno per cause di ingiusta detenzione? Cioè persone che hanno fatto il carcere, un periodo di carcere, e poi fanno causa perché sono state in carcere ingiustamente. 35.255.000 euro, questo nel 2014, 35.255.000 euro. Tra l'altro è un aumento del 41,3% rispetto semplicemente all'anno precedente, 2013. Ieri sui giornali abbiamo letto tutti come la Corte di Cassazione, nelle motivazioni con cui ha mandato assolti in via definitiva Raffaele Sollecito e Amanda Knox per il caso Meredith Kercher, ha demolito letteralmente l'inchiesta, dicendo che è frutto di amnesie investigative, colpevoli omissioni di attività di indagine, una bocciatura totale che non risparmia i magistrati, gli investigatori. Ci sono dei casi clamorosi, indagini genetiche acquisite in violazioni delle regole dei protocolli internazionali, un coltello da cucina rinvenuto e custodito in una scatola di cartone comune, un gancetto del reggiseno della vittima lasciato lì sul pavimento per 46 giorni, cioè cose abbastanza clamorose per la Cassazione. Allora, non vogliamo rifare il processo perché il processo non c'è più, ma chiederci se davvero questo non sia uno dei problemi della giustizia odierna, uno dei tantissimi problemi, magari non il principale, cioè quello di indagini che vengono fatte un po' così, come dice la Cassazione, male, con magari tesi preconcette che vengono portate avanti, con soprattutto nei casi di cronaca nera, omicidi e processi che diventano processi mediatici, show televisivi, e poco invece processi da fare nell'aula dei tribunali. Intanto saluto uno degli avvocati di Amanda Knox, l'avvocato Luciano Ghirga. Buongiorno avvocato. Buongiorno Ghirga. Buongiorno a lei. Buongiorno. Saluto anche un magistrato, Piero Toni, che è andato in pensione, tra l'altro in pensione anticipata, che ha scritto un libro che ha fatto molto discutere, dal titolo Io non posso tacere, Giulio Einaudi editore, di quest'anno, questo libro. Tanto dottor Toni, buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Allora, avvocato Ghirga, intanto la domanda che si fanno tutti è: ci sarà una richiesta di risarcimento anche per Amanda Knox? Noi abbiamo qualche... Buongiorno a tutti, sì. Innanzitutto, grazie per l'invito. Noi abbiamo qualche problema perché la norma dice che chi ha dato origine al fatto non potrebbe chiedere il danno da ingiusta detenzione. Noi abbiamo quella calunnia di Lumumba che un pochino va studiata. Ah sì, perché Amanda Knox aveva... Non ne facciamo il primo dei problemi. Perché Raffaele Sollecito invece sì, però è un'altra, un'altra situazione. Lui è completamente libero di agire. E poi soprattutto non abbiamo esaminato il problema in sé, se fare una causa o meno, dato che a freddo abbiamo tempo, quindi ci ragioneremo. Sì, ci sono credo 2 o 3 anni. La cosa importante chiaramente sì. È l'assoluzione, questa è la cosa che il processo è finito. Però che effetto le ha fatto leggere voler demolire l'inchiesta da parte della Cassazione? No, io non l'ho, questa è una visione giornalistica che rispetto, io me la sono letta il giorno dopo, cioè ieri, in silenzio assoluto. È una sentenza altamente giuridica sul principio del ragionevole dubbio, quindi sugli indizi, sulla loro gravità, sulla loro precisione, sulla loro concordanza. Quando ha dovuto affermare che non c'è un insieme probatorio che vada al di là del ragionevole dubbio, ha dovuto far riferimenti la Cassazione a quei famosi atti di indagine, quelle famose lacune, ma anche volete, definendole, mi sembra clamorose. Qualcosa del genere. Secondo lei, per tutti, la notte del 2 novembre, la notte del delitto, arriva la scientifica di Roma, vede il gancetto di chiusura del reggiseno, il quale reggiseno sta in fondo ai piedi della vittima, tutto insanguinato, lo fotografa, lo reperta, che mette lettera Y e non lo sequestra. E rimane lì per 46 giorni, le sembra che non sia un'omissione? No, ma è chiaro, infatti. Oppure la Cassazione quando ha dovuto ragionare in ordine alla gravità degli indizi, ha dovuto fare richiamo ad altre omissioni del tipo, che hanno impedito l'acquisizione di un elemento almeno indiziario con un notevole spessore. Quindi io vedo meno, a me la sentenza è piaciuta molto, tutto in diritto come deve essere la sentenza della Cassazione, e questi richiami che piacciono più all'informazione ovviamente, alla gente, alle persone. È chiaro, le chiedo questo però. Non ho visto ma certo, avvocato Dirga. Volontà di svilire, c'è qualche critica, ma dice in punta di diritto. Le chiedo però, avvocato, al di là del fatto che non avete deciso, c'è questa cosa sul caso Lumumba che è un po' incombe, e quindi per una richiesta di risarcimento, ma secondo lei per i 4 anni quasi passati in carcere Amanda Knox avrebbe diritto a un risarcimento? Assolutamente sì, sono 4 anni meno qualche giorno. Assolutamente ed sì, è quantificabile se fosse un tetto di 516.000 euro, mi pare, io non lo fate mai, di 516.000 euro c'è un tetto, però no, ripeto, è un argomento da studiare sia se lo faremo sia come lo farete, quanto chiederemo. Allora mi faccia chiedere questo al dottor Piero Toni, che ripeto è stato un magistrato, è un magistrato ma è andato in pensione, ha lavorato nelle maggiori procure d'Italia, ha chiuso la carriera come procuratore capo a Prato, e come dice lei, dottor Toni, nel libro ha fatto questo mestiere per molti anni, ha lavorato nelle procure più importanti con i poliziotti più importanti di Italia, ma tra le tante critiche che fa alla magistratura c'è anche questa che mi ha colpito. Lei dice che troppo spesso si va avanti a forza di gomitate, forzature, spesso succede che un magistrato si innamori così tanto del suo teorema da non volersi accorgere degli elementi che quel teorema lo contraddicono. Per carità, non tutte le inchieste sono così, dottor Toni, ma ne ha viste tante, o ha visto un peggioramento da questo punto di vista negli anni in Italia? Non ho visto un peggioramento, direi che ho visto, che qualche volta succede, sia chiaro, io nel mio testo ricorrentemente dico, a scanso di equivoci, che la stragrande maggioranza dei magistrati lavorano bene e sono degni della massima solidarietà. In questo caso qui quello che mi colpisce più di tutto, è imbarazzante parlare di un fatto che bene o male ho scritto abbastanza distrattamente, ma non ho letto la sentenza come l'avvocato Virga, però che cosa è che lo lega al mio testo soprattutto? Il fatto che sia stata impugnata la sentenza di assoluzione. Se non fosse stata impugnabile una sentenza di assoluzione, la vicenda si sarebbe conclusa molto molto prima. Sì. E questo è quando si pensa a che cosa si è trovato davanti alla Suprema Corte quando ha dovuto decidere, si è trovata un contenitore processuale dove c'era una sentenza di condanna e quindi di primo grado, e quindi con la forza e con la precisione e con l'attenzione del primo grado, che vorrebbe dire i giudici hanno guardato, la Corte d'Assise ha guardato negli occhi i testi, gli imputati e tutto, e dall'altra parte una sentenza di assoluzione. E una volta si diceva che tenere assieme il diavolo e l'acqua santa, ecco. Sì. In una situazione di questo genere io dico da sempre che l'appellabilità della sentenza di assoluzione è un qualche cosa che non può non impedire una sentenza successiva al di là di ogni ragionevole dubbio. Io però vorrei capire in che cosa nel suo libro lei parla anche di un processo che è diventato sempre più mediatico, soprattutto nei casi di cronaca nera. Ma senza entrare, ne ho visti tanti, ne avrà visti tanti anche lei, certo. Forse di più. Il discorso in questo caso di cui stiamo parlando, al di là di tutto, mi pare che sia abbastanza evidente la spinta mediatica che c'è stata. Normalmente la spinta mediatica, cioè cercare un colpevole nelle prime battute delle indagini, la spinta mediatica è locale, in questo caso non è stata solo nazionale ma addirittura internazionale. Sì, ma e questo incide nel incide, lei lo vede in maniera pratica sul poi lo sviluppo? L'ho visto in maniera pratica, cioè che a un certo punto, non voglio dire che si debba trovare a tutti i costi un responsabile, ma la spinta mediatica c'è sempre. E in questo caso è stata molto più evidente, e non dico che, ma qualche volta c'è la tentazione di dare una risposta, diciamo, nelle prime battute, senza andare per il sottile, riservandosi troppo per il sottile, riservandosi di approfondire successivamente, oppure di dare una lezione in linea almeno accusativa con l'opinione pubblica, o con una crociata moralistica. Io sto parlando per il passato, ne ho viste, ne abbiamo visti tutti. Ecco, in questo caso qui credo che la spinta mediatica internazionale abbia potuto in qualche modo accelerare le indagini, e, sì, e la fretta fa i gattini ciechi, la gatta frettolosa, sì, fa i gattini ciechi. Quando lei sente parlare di responsabilità dei giudici, di responsabilità di chi ha sbagliato, evidentemente, se si accertano delle responsabilità, cioè, per dirla come potrebbe dirla l'uomo della strada, questi 25 milioni, quant'è la cifra? No, 35 milioni 255 mila euro che lo Stato, cioè noi, paga per ingiusta detenzione, chi li dovrebbe pagare? Certo, li paga lo Stato, ma a chi li chiediamo? Ma io nel mio libro ho scritto che sono assolutamente d'accordo per la responsabilità civile dei magistrati, e quello che lei parla è l'indennizzo per ingiusta detenzione, quello di cui lei parla, sì, che è un qualche cosa di diverso dall'risarcimento danni per un errore giudiziario. Per quanto riguarda questo di cui parlava l'avvocato Virga, c'è un limite di 500 e qualche cosa, 500.000, che sicuramente non corrispondono se non alla minima parte di quello che che rappresenta 4 anni di custodia cautelare in carcere, quindi in ceppi. Le chiedo anche questo, poi vorrei tornare dall'avvocato Ghirga. Lei è per la custodia cautelare, se ne abusa in Italia? A chi lo chiedo a lei, dottor Toni, se ne abusa in generale? Io l'ho scritto, sicuramente sì. In genere a fendenti di misure cautelari, si lavora con fendenti di misure cautelari, siano esse reali che personali, e se ne abusa perché è l'unico modo, in qualche modo, ed è anche giustificato, per incidere, visto che il processo non decolla, e quindi una qualsiasi risposta arriverà fra 20 anni, e allora si cerca di naturalmente sempre a fin di bene. Sì. A fin di bene, che il magistrato pensa di... Lo metta fra virgolette. Ecco, a fin di bene, questo certamente. Avvocato Ghirga, in questo caso, ma a proposito, so che voi avete sentito Amanda Knox, parlava il dottor Toni della pressione internazionale. Certo, non è mai apparsa molto simpatica o empatica. Al 98% a Perugia sono tutti per la colpevolezza nella mia al città. 98%, sì, diciamo, che così, statistica, insomma, solo i miei amici sono rimasti, solo i miei amici a darmi una mano. Io sono settantenne, vengo dal calcio, vengo dall'amministrazione, dalla politica, tutti conosco. Quindi a Perugia tutti pensano che ci sia una colpevole. Sì, siamo partiti a sostegno di quello che diceva il magistrato. Siamo partiti da una confessione, noi ritenevamo frutto di prostrazione, frutto di dolore, di stress, da una confessione e da un memoriale dove lei si colloca nel luogo del delitto, che è stato immediatamente diffuso alla stampa, cioè il giorno dopo l'arresto. È stata una valanga che non abbiamo potuto più arginare, e quindi venivano pubblicati diari, il Corriere della Sera è stato condannato a 40.000 euro di danno, quindi ripeto, la difesa nell'indagine preliminare, anche se io sono qui da 42 anni, è stata durissima. Quindi partiamo da una confessione, sì, immediatamente propalata, un memoriale con qualche accenno di natura sessuale, quindi c'erano tutti gli elementi per drogata, e naturalmente non c'è traccia, nessuna traccia di uso di stupefacenti, molto dedita al sesso, 20 anni aveva, con i suoi coetanei ha avuto dei rapporti, insomma, questi diari che vengono, quindi è stata un fiume inarrestabile. Poi pian piano sì, siamo organizzati fino alla perizia in appello sul DNA, che è un clamore. Ecco, quello è un altro fatto clamoroso. C'era sangue sul coltello. Esatto, va bene. Il coltello che, no, scusi, se rubo 10 secondi, sì, non c'era sangue sulla lama del coltello. Il coltello è con Ivan Manda a merda. No, ma è chiaro che voglio dire, per dire quelle cose, no, ma per dire clamoroso non è un dileggio. No, ma è chiaro. Dire che un gancetto sta a un metro e mezzo da dove era, ci sta 46 giorni in un luogo dove è entrata solo chi faceva le indagini. È chiaro che sono le cose, che hanno colpito anche la Cassazione. Va bene, allora facciamo così. Io intanto vi ringrazio sia l'avvocato Luciano Ghirga, avvocato di Amanda Knox, sia Piero Toni, ripeto, magistrato che ha scritto questo libro, Io non posso tacere. In questo libro ovviamente non parla solo di questa problematica della giustizia, ma di tutte le questioni, i rapporti col governo, il CSM, la giustizia politicizzata, le correnti, insomma tematiche molto più ampie. Oggi ovviamente abbiamo affrontato, e lo ringrazio, questa peculiare aspetto del caso Kercher. Allora, dopo la pubblicità vi do anche il numero verde se volete intervenire. Come sapete noi andiamo avanti fino alle 9:30, quindi affronteremo vari temi. Dopo la pubblicità avremo Luca Zaia, che è il governatore del Veneto, perché partiremo dal fatto che nella regione Veneto hanno deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale definendo incostituzionale la riforma sulla scuola voluta dal governo Renzi, la cosiddetta buona scuola. E se volete 800 24 00 24 è il numero verde. Poi parleremo e torneremo sulla decisione che ci ha annunciato ieri un funzionario del comune di Roma, del sindaco Marino, di volere multare i clienti delle prostitute. Multare, si sta pensando di fare questo a Roma, con le multe che arrivano a casa, così le mogli sanno cosa fanno i loro mariti. Parleremo di queste tematiche dopo la pubblicità. Siamo qua, sono le 8:42 minuti. Vorrei dare la parola all'800 24 00 24. Ci stanno chiamando gli ascoltatori. E Luca da Parma. Buongiorno Luca. Buongiorno, guardi, io sarò telegrafico, non voglio farvi perdere tempo. Volevo sapere se alla luce di questi fatti non è ora di introdurre in Italia la responsabilità diretta dei magistrati. Diretta, se ne parla da anni, la responsabilità da anni viene regolarmente bocciata dal CSM, nonostante CSM, prima dal Parlamento si discute. Dal Parlamento, vabbè, tecnicamente io non ho la preparazione per dire da chi venga bocciata, di fatto viene bocciata. Sì. E tra l'altro magistrati strapagati rispetto alla media europea. Ieri seguivo una trasmissione, tra l'altro argomento, parlavano dell'IMU. Fa molto comodo fare appello all'Europa, dire ma in tutta Europa si paga, però dell'Europa non si fa conto quando bisogna parlare dei nostri deputati che sono pagati molto di più. Una cosa da dire Luca da Parma, perché questo è da dire, che in realtà c'è la responsabilità dei magistrati, credo, per dolo, per colpa grave, cioè, però quello che sicuramente, questo dice la legge, ma quello che sicuramente si può dire è che credo siano stati condannati per questi, per dolo, colpa grave, pochissimi magistrati in decenni, non so, 2, 3, 4 casi. Benissimo, non mi risulta, io per esempio sono medico, i medici, addirittura le assicurazioni stanno rivalutando per ogni medico la propria assicurazione professionale, è vero, perché sta aumentando enormemente per coprirsi da eventuali cause. Ecco, sì. E allora le faccio un esempio flash del mio caso. Sì. Io sono uno di tanti medici, sono laureato da 30 anni, che non ha ricevuto il pagamento previsto per gli anni di specialità da parte dello Stato italiano, e siamo in class action dal 93. Ho ricevuto, sono uno dei pochi fortunati che ha ricevuto una piccolissima tranche di quello che mi era dovuto, e addirittura ho dovuto versare, perché poi l'Italia è un paese incredibile, no? Fioriscono le varie associazioni per le cose, ho dovuto versare un'ulteriore somma per far trascrivere una sentenza favorevole passata in Cassazione. Diciamo, Luca, questa è la sua vicenda anche personale, però rimango alla questione della responsabilità dei magistrati, che è un tema molto molto dibattuto e che lei pone. La ringrazio. Andrea Napoli d'Antonio, buongiorno Antonio. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Allora, io vorrei dire che questo problema purtroppo credo che sia molto più diffuso di quanto non si possa pensare, al di là dei fatti di cronaca che hanno una rilevanza particolare. Brevemente, io sono un dirigente apicale, ho subito un procedimento per abuso d'ufficio e in questo procedimento in realtà mi si contestava l'adozione di un certo provvedimento, di un certo atto, che non era firmato da me. Per cui questo procedimento è durato 6 anni, io poi sono stato assolto su richiesta dello stesso pubblico ministero che aveva confuso materialmente 2 fogli di carta attribuendomi la responsabilità di un atto non mio. Non suo. Non mio. E fortunatamente in questo caso, immagino che non abbia fatto neanche mezza giornata di carcere. Cioè... No, grazie a Dio no. Però per esempio ho subito una perquisizione, peraltro per un abuso d'ufficio. Insomma, sì. 6 anni per poi essere assolto su richiesta dello stesso pubblico ministero che pubblicamente a un certo punto in aula, in udienza, si è dovuto, non dico scusare, per aver confuso materialmente un foglio di carta con un altro per 6 anni. Sì. Ma gliene potrei raccontare, ti darò ancora 15 secondi, ancora un altro. Sì. Sempre nella qualità di responsabile apicale di vertice di commissario di un ente, mi arriva un avviso di garanzia. Io ero stato per un certo periodo, per 2 anni, da una certa data ad una certa data. Mi arriva 3 anni dopo un avviso di garanzia con 30 reati presunti. Io guardo le date e mi accorgo che in quel periodo io non c'ero, cioè io ero stato fino ad una certa data, diciamo ipoteticamente fino ad oggi. Sì. I reati erano stati contestati al mio successore, quindi dall'indomani. Vabbè, ma è chiaro Antonio che errori ci possono essere. Certo, la cosa che mi colpisce della storia che mi racconta è che 6 anni per accertare uno scambio di fogli mi sembra una cosa abbastanza clamorosa. La ringrazio per questa sua testimonianza. Voglio salutare, sono da lui dopo un minuto di traffico, il governatore del Veneto Luca Zaia. Buongiorno governatore. Buongiorno. Le chiedo un attimo di pazienza, un minuto il traffico e poi sono da lei per capire alcune cose. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta. Eccoci qua. 8:48 minuti, c'è Luca Zaia, governatore della Lega del Veneto. Eccoci qua, governatore. Buongiorno. Allora, ci aiuta a capire intanto perché avete fatto ricorso contro la riforma della scuola, la giudicate incostituzionale addirittura? Ma guardi, mi metto nei panni dei cittadini che mi ascoltano, che magari pensano, ma questi stanno difendendo la loro poltrona. Non è così, nel senso che c'è questo provvedimento del governo che parla di scuola. E noi ravvediamo alcuni punti sui quali ricorrere, ma non per la voglia di ricorrere, semplicemente perché le cose debbono funzionare. Le faccio un esempio. Sì. Il dimensionamento scolastico, quindi decidere sostanzialmente l'ampiezza degli ambiti territoriali, della funzione della popolazione scolastica, il numero di istituti, e questo di solito lo fa la regione. Le faccio un brevissimo esempio. Nella mia regione esiste la scuola enologica. È emanazione di un contesto produttivo, di una storia dei territori, e noi veneti abbiamo fatto una programmazione rispetto a questo piuttosto che rispetto ad altri istituti tecnici. Sì. L'altro aspetto fondamentale è il compito di definire l'offerta formativa. Altra particolarità della mia regione, abbiamo 20.000 ragazzi che frequentano le scuole di formazione. Allora, si dice da un lato che il modello lavorativo del Veneto funziona perché c'è l'alternanza scuola-lavoro, portiamo al diploma dei ragazzi che comunque avevano fatto esperienze lavorative, dall'altro mi togli la possibilità di continuare a programmare. Cioè lei dice che questa riforma esautora un po' la regione da alcune competenze, quindi per voi è incostituzionale. Guardi, da un lato direi che c'è la volontà di portare avanti questo pensiero neocentralista, cioè di riaccentrare tutto su Roma, convinti del fatto che gli sprechi di alcuni spreconi in giro per l'Italia li debbano pagare tutti, abbiano il coraggio di applicare i costi standard e obbligare gli spreconi ad essere virtuosi. Dall'altro la necessità anche di riconoscere le particolarità regionali. Le faccio un esempio, noi abbiamo 90.000 bambini, tanto per parlare di scuole dell'infanzia, cioè i ragazzini che vanno all'asilo, abbiamo 90.000 bambini che in Veneto non hanno una scuola pubblica, non esiste un edificio. Noi pensiamo a questi bimbi, le famiglie si sobbarcano le spese, noi li aiutiamo per quello che possiamo e lo Stato ogni anno, grazie a questo lavoro dei veneti, risparmia 435 milioni di euro. Sa cosa, però la critica che è arrivata, per esempio la responsabile scuola del PD pugliese dice ma come si mette contro l'assunzione di 160.000 docenti, cioè se dovesse essere giudicata incostituzionale salterebbe anche tutta questa questione delle assunzioni, i docenti. Guardi, le faccio un altro esempio. Nella mia regione ci sono 200 posti vacanti per presidi. mi passi in esattezza poi delle definizioni, ci sono delle regioni in Italia che ne hanno 600 in più di questi profili rispetto ai posti che già sono occupati. Direi che rispetto alle assunzioni nella scuola pubblica, ma soprattutto alle programmazioni sbagliate in alcune regioni, oggi paghiamo il conto tutti. Non più tardi una settimana fa tutti i media nazionali parlavano dei concorsi, dei trasferimenti, del fatto che comunque le territorialità non vengono rispettate. Poi che lo dica la Puglisi, che come ha giustamente presentato lei è del PD, sì, diciamo che non è, beh, non difende, è, difende la sua riforma, ma lei non è colpito, difende, cioè, la sua riforma, sì, dal rischio della portata dovesse essere giudicata incostituzionale, questo indipendentemente dalle appartenenze politiche, cioè si rischierebbe un casotto con tutto quello che è stato fatto per assegnare le cattedre. Il governo impugna tutte le nostre leggi, impugna tutte le leggi che il Consiglio regionale del Veneto fa e non si fa nessun problema. A me spiace per i lavoratori e spero che una soluzione per i lavoratori comunque si troverà, perché non resteranno a casa. Tra l'altro è tanto vero che il modello della formazione, il modello del dimensionamento scolastico e tutta una serie di norme che si intrecciano con le competenze delle regioni, io sono stato eletto dei Veneti, ho l'obbligo di difendere gli interessi dei Veneti. Tra l'altro lei sulla scuola ha anche attaccato molto i test di medicina. Beh, per la verità molti criticano che siano fatti magari con domande non proprio consone a uno che vuol fare il dottore, ma perché ce l'ha con i test di medicina? Ma guardi, io le dico questo, io non è che ce l'ho con i test di medicina, ce l'ho con i test di ammissione in generale. Penso che la valutazione di un ragazzo, di uno studente, io ho fatto l'università senza i test di ammissione, mi sono iscritto a veterinaria negli anni in cui non c'era il test di ammissione, la fai sul campo, devi diventare severo, devi pretendere che resti in corso, ma devi dare a tutti la possibilità di studiare. Pensi ad esempio a tutti gli studenti lavoratori, anche qui con l'obbligo della frequenza. Allora io dico, ma quanti premi Nobel avrebbero superato il test di ammissione? E allora l'università mi spieghi perché dà le lauree honoris causa giustamente a molti bravissimi imprenditori che non hanno fatto né l'università neanche i test di ammissione? C'è un controsenso, no? Allora io dico che la selezione deve essere fatta durante il corso di studi. Bisogna garantire a tutti la possibilità di provare e dopodiché si vedrà che vinceranno i migliori. Io ho studiato in un'aula dove si devi sul davanzale perché non c'era il posto, però i bravi veterinari sono usciti, no? da quel posto di laurea. Le faccio una domanda sull'immigrazione, poi dobbiamo dare una comunicazione importante su un numero attivo per il Veneto, certo, per questo grazie. Ci tengo, però le faccio una domanda sull'immigrazione. Senta Zaia, ma Angela Merkel che dice prendiamo 500.000 profughi perché stiamo invecchiando e bisogna pagare le pensioni, non è una visione da statista lucidamente pragmatica da seguire? Guardi, lo potrebbe dire chiunque, anche in Italia prendiamo 500.000 profughi, ma ha usato un termine che a tutti è passato inosservato, ma ha un valore, ha parlato di profughi, non ha parlato di immigrati. Sì. Qui da noi 2 su 3 non sono profughi, allora basta capirsi, i veneti non si rifiutano di ospitare chi scappa dalla morte e dalla fame, si rifiutano di ospitare i migranti economici. Quando in Veneto arrivano il 22% degli immigrati arrivati sono senegalesi, lei mi deve spiegare perché non fuggono da nessuna guerra, lei dice. Allora la Merkel non ha detto sostanzialmente, secondo me, una cosa normale, mi permetta anche di dire un'ovvietà, cioè il profugo deve essere aiutato senza se e senza ma i profughi, tanto è vero che Merkel dicendo questo ci ha già annunciato che quelli che non sono profughi li spedirà a casa, cosa che in Italia non avviene. Allora, voglio chiudere citando questo perché mi sembra importante. Credo fino al 15 settembre, siccome l'8 luglio scorso, sapete, a Riviera del Brenta c'è stato un tornado, tante distruzioni. È ancora attivo, Presidente, fino al 15 settembre un numero che è il 45500 su cui si possono donare 2 euro, credo. Questi vanno alla popolazione, giusto? Ricordiamolo ancora, 45500 è il modo più veloce. Sì, 45500. E 2 euro un messaggio, 2 euro il fare una telefonata da un telefono fisso, e noi chiediamo l'aiuto di tutti, ringrazio tutti i cittadini che hanno aiutato e stanno aiutando la Riviera del Brenta, ha avuto un tornado, un morto, 92 feriti, 300 abitazioni danneggiate delle quali almeno 100 da demolire, oltre 300 autoveicoli rottamati, insomma una devastazione di un vero terremoto. Questo fino al 15 settembre, 45500 per donare 2 euro. Noi ci sentiamo ancora dopo le 9.30, grazie a Luca Zaia, andiamo avanti fino alle 9.30, state con noi. Buongiorno da Maurizio Melis. Come abbiamo visto nella puntata di ieri sera di Smart City, le prime autocisterne cariche di biometano di origine agricola inizieranno tra non molto a circolare per le strade. Lo scorso 5 agosto il GSE ha infatti definito le regole per avviare questo mercato e il mondo del biogas italiano, che ha superato da tempo quota 1000 impianti, si è subito messo in moto. Come vedremo stasera, il biometano è una grande opportunità per le imprese agricole italiane, perché consentirebbe a quest'ultime di rendersi del tutto o in parte, insomma, indipendenti dal punto di vista dei carburanti. E questo è uno dei benefici sul tavolo. Ma si tratta di una grande opportunità anche per il settore dei veicoli a metano, un settore in cui l'Italia è il leader mondiale indiscusso. Per esempio, è italiana la tecnologia che consente di trasformare in dual fuel i veicoli a gasolio. Insomma, un'opportunità tanto per l'industria quanto per l'agricoltura, di cui parleremo questa sera a Smart City, qui su Radio 24 alle 20:50. A voi tutti una buona giornata. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Del piano dell'Unione Europea, che tra poco verrà presentato dal suo presidente Juncker, quanto ad accoglienza dei migranti e dei rifugiati, ormai sappiamo tutto. Sappiamo che la Germania farà la parte del leone. Angela Merkel, con la sua mossa, ha esercitato una vera leadership e ha fatto capire che cosa significhi prendersi carico dei problemi anche quando i problemi non li hai generati. Ma ci sono altri due aspetti che andrebbero sottolineati. In primo luogo, l'opinione pubblica tedesca non ha reagito male all'annuncio del governo Merkel, che ha detto che la Germania potrà arrivare ad accogliere almeno 500.000 di migranti ogni anno per i prossimi anni. E non l'ha fatto per due motivi. In primo luogo, i 6 miliardi che la Germania metterà a disposizione sono soldi che la Germania ha in cassa. In secondo luogo, la classe politica tedesca, oggettivamente, quando dice qualcosa, tende a farla. Il terzo aspetto per cui vale la pena utilizzare la Germania come esempio, come modello, è che ha posto seriamente, in maniera non ipocrita, il problema della sostenibilità demografica del nostro welfare. Gli studi pubblicati in questi giorni ricordano come l'Europa nel 2050 avrà una proporzione insostenibile tra numero di lavoratori e numero di pensionati. Il che non vuol dire far entrare indiscriminatamente tutti i migranti e i rifugiati, ma significa accettare il fatto che se non vuoi toccare la qualità del welfare, se non vuoi ridurre l'assegno pensionistico, se non vuoi aumentare i contributi per il lavoratore, l'unica altra strada è ragionare in maniera pianificata su quelli che saranno i grandi temi di uno sviluppo futuro. Una lezione di serietà e di maturità di cui l'Italia ha particolarmente bisogno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Allora, cari ascoltatori, sono le 9:09, ben ritrovati da Alessandro Milan. Come sapete, tutto il mese di settembre andremo in onda fino alle 9:30. E di cosa vogliamo occuparci ora? Vogliamo tornare sulla questione che ieri ci ha posto il vice capo gabinetto del sindaco Ignazio Marino. Ci ha raccontato che stanno studiando, ed è proprio lei, il funzionario del comune, che sta mettendo a punto le novità riguardo ai regolamenti di polizia municipale, che risalgono a 60 anni fa, quindi va dato un ammodernamento. Stanno pensando a fare delle novità importanti. Una su queste sarà quella di multare coloro che gettano i mozziconi di sigarette per terra a Roma. Una multa sui 200 euro, come c'è in molte città italiane, europee, mondiali, poi magari non viene applicata. Io ho scoperto che c'è anche a Milano questa multa, non ho mai vista una contravvenzione fatta a uno perché lei ha buttato il mozzicone, mi deve dare... Ma avete mai visto una multa del genere a Milano? Io non... Nessuno mi ha mai detto, nessuno della mia cerchia di amici, conoscenti, che sia successa una cosa del genere. Ma soprattutto poi la funzionaria Rosara Matarazzo del comune di Roma ci ha detto che stanno studiando anche di multare i clienti delle prostitute. Attenzione, attenzione, multarli, ma non solo multarli, proprio con la multa che ti arriva a casa, perché sentite la Matarazzo. ci potrebbe essere anche una sanzione per chi in qualche modo effettua delle manovre di avvicinamento. Vabbè, si può dire alla moglie, mi hanno beccato, quindi, che facevo inversione. Beh, però è difficile dimostrare alla moglie di trovarsi alle 2 di notte sulla Talaria, ecco. Hai capito, è difficile dimostrare che eri alle 2 di notte sulla Salaria alla moglie, perché ti arriverà a casa, proprio a casa, è confermato. Ma con tanto di sanzione che o uno paga subito o ti arriva a casa, perché sa qua. No, no, ti arriva a casa, così le mogli saranno lieto di ricevere. proprio così, la gogna. A me è venuta così, la gogna. Filippo Facci, buongiorno. Ciao Filippo. Buongiorno a tutti. Ti piace questa idea? Stai fumando? Sì, in casa avrai il portacenere, però. Dove? Io sì. Mica te lo anche butti per casa, no? Sì, no. Mi viene da farlo un pochino dopo aver sentito. Addirittura. Sì, no, ma io non sono contrario a, come posso dire, a multare chi sporca. Non sono contrario neanche paradossalmente al posacenere portatile, anche se lo, come posso dire, lo applicherei non nelle città ma fuori. L'altro giorno ero a fare una scalata sul Resegone, io poi sono un forte fumatore, fumo persino nelle pause delle scalate, e mi sono chiesto dove accidenti dovrei metterlo io un mozzicone alla fine. È certo che però sul Resegone volere anche il cestino, poi qualcuno che lo deve svuotare, è un po' un casino. Infatti, voglio dire, poi l'hai detto tu prima, poi se vai a Singapore ti fanno fare anche dei servizi sociali più $1,000 di multa. È vero. Perché per terra. È vero. Però, ecco, insomma, alla fine mi sa un pochino, non tanto di penaltrismo, come si dice, cioè meritevole della battuta che a Roma ci sono altri problemi, insomma ti occupi dell'insalata e manca la bistecca, come si dice. Sì. Ma un po' sì, nel senso che tu hai detto a Milano non ho mai visto una multa, eccetera. Mai, però mai. Anche, no, però a Milano sono messi un po' meglio dal punto di vista, come posso dire, se vai in centro è pieno di cestini, sì, anche persino posacenere ci sono. Sì, però questo è il funzionario che si occupa di questo, lei quindi parla di questo, cioè non è che lei deve risolvere il problema di mafia capitale, che ne so, dico una cosa, oppure di cioè lei dice, io sto rivedendo il regolamento della polizia e lo rivediamo così. Sì, però se scivola sui giornali in un periodo come questo, in cui appunto spiccano sinceramente i problemi ritenuti più gravosi per Roma, si devono sorbire anche l'ironia di chi magari osservi che a Roma se lo butti per terra il mozzicone te lo devi mangiare, perché non ci sono i cestini, non ci sono i portacene in giro per Roma. E quindi tu non lo butti per terra, magari a fianco a un sacchettazzo di pattumiera che però è lì da 3 giorni. È buttato lì. Però intanto vorrei chiamare all'appello gli ascoltatori 800 24 00 24 e parlare anche un po' del tema prostituzione, perché Filippo ti devo presentare un altro sindaco, un sindaco che invece le multe le fa già, Fabrizio Brignolo, sindaco di Asti del Partito Democratico, giusto sindaco? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei le multe le fa, cioè che vuol dire? È vero che 500... No, lei non è che le fa, le fa lei, cioè, però ci sono le multe di 500 euro, giusto, per i clienti beccati a contrattare con la prostituta. Noi abbiamo fatto molto semplicemente un'ordinanza contingibile e urgente, che sono le uniche ordinanze che possono fare i sindaci, sì, nel senso che probabilmente per evitare, no, quelli che facevano l'ordinanza che non si poteva andare in costume da bagno, queste cose qui, lo Stato ha limitato molto i poteri di ordinanza del sindaco, si possono fare solo per ragioni in qualche modo collegate alla sicurezza, all'igiene e quant'altro. Allora abbiamo fatto un'ordinanza, siccome la prostituzione, come noto, è liberamente esercitabile su tutto il territorio nazionale, noi abbiamo fatto invece un'ordinanza in cui spieghiamo che per le ragioni che abbiamo detto prima, tra l'altro devono anche avere un termine queste ordinanze, non possono fare ordinanze fino a ottobre, quindi abbiamo messo fino a ottobre. Vabbè, ne farà un'altra poi dopo. Periodo, vabbè, insomma, bisogna motivare perché si fa, visto che c'è questa limitazione, quindi non è così semplice per i sindaci muoversi nelle... E cosa prevede questa ordinanza? Prevede che non si possa esercitare la prostituzione, non si possa neanche contrattare le prestazioni, quindi vengono sanzionati sia i comportamenti chi esercita l'attività, sia quelli dei clienti. La sanzione poi non è prevista, ovviamente, non è quantificata dalla nostra ordinanza, ma è la sanzione generale che è prevista dalla legge nazionale per chi viola le ordinanze contingibili urgenti. Che quindi è 500 euro. Mi pare sia una cosa da 50-500 euro. Ma c'è qualcuno che è già stato multato ad Asti? No, perché ha circa un centinaio. Cioè, di clienti. Aspetta, sono circa un centinaio, di cui una trentina sono clienti, una sessantina, insomma, due terzi, un terzo. Vabbè, 30 clienti. Anche perché multare il cliente è molto più complicato, perché devono mettersi la pattuglia, perché se c'è la pattuglia dei carabinieri o della polizia municipale, la signorina si allontana o Filippo, non è facile. Bisogna mettersi proprio lì a postarsi. No, però io vorrei capire una cosa dal sindaco Brignolo: ma mandate a casa le multe? No, perché c'è una regola generale che vale per tutte le sanzioni amministrative che, ove possibile, deve essere contestata immediatamente. Uno si è portato 300 euro per la prostituta, la dà invece al vigile. La notifica della sanzione viene fatta subito. Voi sapete che anche per il codice della strada è così. No, perché questo è un tema interessante, perché il funzionario del Comune di Roma, caro Filippo Faccia, ha detto che invece vuole la gogna, dai, gliela mandiamo a casa, così le mogli saranno liete. Riesco persino a trovare un parallelo tra la questione delle sigarette e questa della prostituzione, nel senso che entrambi a loro modo sono due provvedimenti per sopperire alla mancanza di altri provvedimenti più globali, più importanti e più nazionali. In questo caso, nel caso della prostituzione, cioè, secondo me è odioso l'atteggiamento della signora romana, che la mette su un profilo, come posso dire, morale. Ah, tua moglie saprà che tu eri andato a prostituzione, come se il problema fosse questo, come se la prostituzione fosse vietata e come se il vero scandalo, secondo me, non fosse che le prostitute appunto sono in un limbo tra la legalità e l'illegalità e non pagano le tasse, ma appunto lo scandalo vero non fosse, come secondo me, che le tasse dovrebbero pagarle perché il loro è un lavoro normale. Certo, come posso dire, l'ordinanza del sindaco è un modo di risolvere un problema che da una parte può sembrare di decoro urbano, dall'altra però è stravero che si creano dei problemi, voglio dire, di decoro urbano perché sporcano, si creano insomma piccoli caroselli, via dicendo. Dall'altra è anche vero che la maggior parte delle prostitute di strada, che però nella loro globalità sono una minoranza, sono spesso le più sfruttate, sono spesso addirittura rientrano in altri ambiti che sono quelli insomma della addirittura del reato di schiavitù. Però insomma i sindaci, visto che il popolo italiano, i loro rappresentanti non risolvono il problema a livello locale, si arrangiano come possono, che sia per ragioni ideologiche, e nel caso di Asti non mi risulta che sia così, o che sia per ragioni molto pratiche, per cui insomma faccio una cosa per risolverne un'altra, insomma fanno quello che possono, e da tanti anni che fanno con intenti diversi questo tipo di provvedimenti. Tu, Filippo, dici hai azzardato un parallelo, ma non è azzardare, perché guarda che la vicenda delle sigarette, la multa per il mozzicone, e la prostituzione, la multa ai clienti, così come tutte le regole del decoro urbano, sono nello stesso provvedimento che a Roma stanno studiando. Cioè è tutto un provvedimento che rimangono tracce per terra in ogni caso, però è una battuta fino a un certo punto, è perché però, è un insomma, regolamento che vuole... non si può sporcare per terra a livello nazionale, questa sarebbe la regola. Non si può sporcare, non si può esercitare la prostituzione in luogo aperto, ma solo in altri luoghi regolamentati. Questa è la grande... basterebbero queste due regole con di appunto sotto regolamenti, e non ci sarebbero i sindaci costretti a fare notizia con intenti diversi, sia quello di sputtanare i clienti con le loro mogli, ossia quello semplicemente di un sindaco invece del PD che vuole comunque risolvere un problema perché esiste. C'è una grande ipocrisia. Dopo la legge Merlin non si è mai riuscito, si è solo dibattuto in questi decenni sul fatto di reintrodurre la prostituzione, una regolamentazione. Ci sono paesi anche dove non c'è, però sai cosa dicono? Che ci sono molti paesi in cui è stata regolamentata e non ha dato risultati, per esempio non ha liberato le persone dalla schiavitù, perché ci sono molte donne. Sì, ma voglio dire, non è liberare l'obiettivo di una regolamentazione di una professione, non è impedire che ci sia qualcuno che cerca di approfittarne e liberarci dalla schiavitù. Se vai in Germania, guardano se le prostitute pagano o no le tasse effettivamente, visto che lì l'hanno regolamentata la prostituzione, non se ci sono ancora in giro le schiave. Poi le schiave ci sono persino in Svizzera, dove sì, la prostituzione è legale da una vita ed è più pulita, voglio dire, di come Marino vorrebbe che fosse la sua città senza mozziconi. Però insomma, alla fine noi ci giriamo intorno, perché guai se venisse fuori qualcuno a dire semplicemente la prostituzione è una realtà, applichiamo. Tanto ho già visto che c'è l'ipocrisia, c'è, ma va messa un po' sotto il tappeto, va messa sotto il tappeto. Io vorrei chiamare gli ascoltatori 800 24 00 24. Tra un attimo sono da un'ascoltatrice. Prima vorrei però sindaco Brignolo, sindaco di Asti, anche lei personalmente sarebbe per una regolamentazione del fenomeno, perché come dice Filippo Facci almeno si evita che i sindaci come lei o altri sindaci debbano ricorrere poi ad espedienti per risolvere così in maniera un po' posticcia, se mi permette il termine, questo problema, sindaco? L'analisi che è stata fatta mi sembra molto, molto corretta, è proprio così, cioè noi ci arrampichiamo sui vetri in un contesto normativo che è inadeguato, quindi sicuramente l'analisi è corretta, andrebbe regolamentato in qualche modo, anche perché noi, come dire, questa ordinanza si inserisce in un contesto un po' più ampio, insomma noi siamo un comune in cui da parecchi anni, dal 2000, opera anche per gli ordini di servizi sociali un'attività anche di recupero rispetto al fenomeno della tratta, nel senso, da cosa ci dicono i nostri servizi sociali, le ragazze che operano su strada sono quasi tutte, ahimè, vittime della tratta, cioè la prostituzione volontaria, almeno per quello che ci dicono i nostri servizi sociali qui ad Asti, è prevalentemente esercitata effettivamente in case private, in locali, mentre queste poverine che stanno sulla strada sono vittime della tratta, lo fanno non perché volontariamente, ma sono inserite in un processo di tratta di esseri umani. Quindi questo intanto dovrebbe essere anche, come dire, forse se chi fruisce di queste prestazioni se ne ricordasse, magari eviterebbe, no? O lo sapesse, perché magari non è informato, magari eviterebbe, no? Di spendere così 50 euro, i 30 euro, gli 80 euro. Però lei insomma auspica una sorta di regolamentazione, cioè non lasciare tutto in mano alle decisioni dei sindaci. Non è, no, ma che poi, ripeto, lo facciamo arrampicandoci un po' sui è chiaro, è chiaro. Come veniva detto prima, usiamo, diciamo, chiediamo degli strumenti che hanno forse, sono stati pensati per altre casistiche, cerchiamo di guardi, comune che vai e ordinanza che trovi e espediente che trovi. Vorrei sentire Alessandra, ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. È fumatrice lei? Sì, sono fumatrice. Vorrei stia attenta, dire una perché cosa. Arrivano le multe. Arrivano le multe per i mozziconi, stia attenta. Ecco, io non ho questo problema per il semplice motivo che dove li butto i mozziconi? Ho un piccolissimo portacenere portatile, leggerissimo, di plastica, che persino un giornale importante, un quotidiano, alcuni anni fa inserì come gadget, sì, e si buttano là dentro e poi quando si trova un cestino... Quanto costa questo oggetto, da un euro? Allora, euro? Io ho ancora uno preso in Giappone, molto carino. In ho Giappone. Ancora a casa quello del Sole 24 Ore, perché sono eterni e indistruttibili. Li facciamo noi al sole, cosa vuole che siano se non eterni e indistruttibili? Ecco appunto, però anche quello comprato in Giappone è così, e garantisco che funziona perfettamente. Vabbè, adesso vorrei sapere se siamo più competitivi noi del Giappone nella costruzione di portacenere e portatili. Un suggerimento ai quotidiani, mettetelo come gadget. Un suggerimento anche a Filippo Facci, compratelo e portatelo sul Resegone invece di lamentarti di dove butti il mozzicone. Io ce l'ho. E allora, scusa. Quando fai alpinismo devi alleggerire al massimo. Ma quanto peserà? Peserà 30 grammi, ma dai. È importante. Ma no, ma dai, su. Vabbè, tra l'altro arriva un ascoltatore via SMS che dice: una domanda per Facci, ma la prostituzione Facci la considera un lavoro normale? Se sua figlia facesse la prostituta ne sarebbe contento dunque? Questo chiede Luigi da Pisa. Caro Filippo, tu che sei un liberale. Sì, in linea di massima ne sarei contento, sì, perché significherebbe che avrei una figlia, ora non ce l'ho, quindi. Però a parte la battuta, non so quali siano i lavori normali, neanche fare giornalista è un lavoro normale secondo me. Però sì, secondo me è un lavoro normale, e un giorno lo sarà reputato da tutti, poi ci sono altri lavori orrendi che suscitano riprovazione ma che non sono eliminabili. La cosa migliore che possiamo farlo è eliminare, come dire, una parte di ciò che è insopportabile di questo mestiere, per esempio che delle persone lo svolgano evadendo il fisco. Questo io penso, non è necessario apprezzare o no un lavoro degli altri per giudicarlo, come dire, odioso semplicemente perché fatto anche alle mie spalle dal punto di vista fiscale. Sì, lo considero un lavoro normale. Normale, questa è la risposta a Luigi da Pisa. Rosario da Napoli, buongiorno Rosario. Buongiorno, buongiorno a lei. Volevo portare due velocissime testimonianze per quanto riguarda i mozziconi a terra di due fatti accaduti all'estero. Uno a Francoforte, mi trovavo in pieno centro di Francoforte, pedonale, migliaia di persone. Io dopo un'ora e mezza da fumatore che fumavo, per disperazione sono dovuto entrare in un bar per buttare il mozzicone perché non sono riuscito a trovare la complicità di un mozzicone a terra. Vede l'esempio sociale, la complicità di un mozzicone. Ma perché se lei ne vedeva uno, dice: come ce ne stanno bene due? Oltre vent'anni fa. E perché poi, Rosario, però è bellissima l'espressione: non ho trovato la complicità di un altro mozzicone a terra. Esatto. Fantastico. E poi mi è accaduto un altro fatto recentemente in Costa Azzurra, seduta a un tavolino di un bar, quindi all'aperto. Ho chiesto al cameriere la ceneriera per il mozzicone. Il cameriere mi ha risposto che potevo tranquillamente buttare a terra il mozzicone perché se passava il vigile avrebbe multato solo me. Se trovava la ceneriera sul tavolino avrebbe multato anche il bar. Queste due esperienze, le esperienze dall'estero. Quindi, un fatto strano accaduto in Costa Azzurra. Vabbè, io devo dire che secondo me, e qua è Filippo Facci, si arrabbierà moltissimo, sono dell'idea che bisogna essere duri, colpire duro per educare, colpirne uno per educarne cento. Ti piace questa che ha detto qualcuno in passato? Ma io sotto sono masochista da questo punto di vista. Vorrei essere punito perché significherebbe che. Ma perché? Così che funziona. Perché vedi, non c'è la complicità degli altri mozziconi per terra e quindi lui non li ha buttati. Ci vuole l'associazione per delinquere dei mozziconi per 416 416 terra, no, lì mi fermerei, su questo non sarei così duro no. Però ringrazio Filippo Facci, firma di Libero, così come ringrazio il sindaco di Asti Fabrizio Brignolo. Voglio chiudere con la nostra segreteria telefonica perché ce l'abbiamo. Alessandro, stai diventando pettegole e petulante, ma rimane solo di Roma. Guarda la tua Milano, che ci sono andate, ci sono anche mille lagune, ho dovuto difendere Marino. Tutto quello che è successo a Roma sembra la colpa di Marino, non di Alemanno. A Milano siete tutti sempre degli ipocriti, voi siete falsi predicatori di bene, avete capito? In quanto le guerre le ha propinate l'Occidente lì, ipocriti, falsi. Signor Milan, ha visto come si accusano? Quello dice un verme, che l'altro dice una bestia. Alla fine io ho dedotto questo, che in Italia la politica è tutto un giardino zoologico. Mamma mia, ando si marroata. Che vergogna. Ciao Ale, io sentivo proprio la mancanza delle tue debosciate. Oh, finalmente una che ha capito il senso per cui li chiamo debosciati, in senso affettuoso. Debosciati miei, ci siamo anche domani alle 6.30 con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, con Peter Bescapè in regia, alle 6.30, domani. Oh Milan, brutto debosciato!